Falsor d'un blues, cat venia Saint Mela. Falsor d'un blues, ma tu te torni Saint Mela. Sono un rock and roll, che vuoi da me? Falsor d'un blues, oggi sai che giorno è? Senza batteria, eh? Falsor d'un blues, è il giorno che non c'è. Sono un rock and roll, tu che vuoi da me? Vai via. Falsor d'un blues.